Sono le 8:51 di martedì 6 maggio 2025. Sto per avviarmi verso l'ufficio. Oggi non è giornata di smart working e, dopo una rapida occhiata a Google Maps, pare che mi attenda uno di quegli ingorghi epici sulla Cassia bis, non dissimili da quelli che trovavo sul raccordo sulla pontina nella prima epopea dei pendodeliri. Ormai tutta quella mia esperienza al limite del mistico e del pensiero magico, perché naturalmente a quello ti puoi affidare, non più alla razionalità, quando tutto diventa così imprevedibile e soverchiante, tutto quel periodo me lo sono messo alle spalle. Adesso la mia non è una vita fatta di ingorghi, però ogni tanto anche il quadrante di Roma Nord sicuramente offre dei revival non così lontani, ecco. Comunque è stata una settimana intensa dal punto di vista della discussione sul futuro dei musei, sia perché abbiamo avuto per esempio Claudia Pecoraro, una curatrice indipendente, anche museologa, che ha tenuto una lezione al corso per l'Istituto Luce che sto tenendo insieme a Maria Elena Colombo sulla promozione in rete del patrimonio culturale, degli archivi. Naturalmente gli archivi dei musei sono molto importanti, ma soprattutto perché poi ieri mattina e l'altro ieri pomeriggio, quindi domenica e lunedì, ho partecipato e ho anche dovuto prendere un giorno di ferie al Rome Rebirth Forum, a un tavolo che si intitolava in modo abbastanza criptico La città museo. Abbiamo dovuto praticamente noi decidere che cosa significasse, perché non è che ci fossero grandi istruzioni, se non almeno sul merito della questione. Il metodo era abbastanza chiaro: la famosa demopraxia che il grande artista Michelangelo Pistoletto ha esposto nella introduzione del Rome Rebirth Forum, e che dovrebbe essere la capacità dell'associazionismo, delle persone, dei gruppi, delle istituzioni sparse sul territorio della città, a dover mettersi insieme e realizzare pratiche democratiche in modo più rapido e più efficace rispetto al sistema della democrazia rappresentativa. Adesso, senza entrare nel merito se sia giusto o sbagliato, comunque mi è parso un esercizio interessante, e al tavolo ho trovato sicuramente persone che ne sanno anche di più di me. Come sapete, io non sono museologo e mi occupo ormai di arte contemporanea e di musei in modo del tutto tangenziale, perché la mia ricerca sui media mi ha portato a individuare tanti altri riquadri di rilevanza che vanno a occupare la prateria lasciata libera dai media, che ormai non si occupa più di fornire alle persone chiavi interpretative del mondo, e quindi tanti altri soggetti lo fanno gli artisti contemporanei, lo fanno i curatori, lo fanno le gallerie, lo fanno i musei. Quindi è con questa premessa che mi sono presentato al tavolo, dove naturalmente c'erano esponenti di varie realtà, c'erano persone in rappresentanza per esempio di Roma Capitale, del primo municipio in particolare, che è quello forse più ricco di musei. E poi c'erano varie tipologie di intermediatori culturali, ma anche associazioni. Per esempio c'era l'associazione che rappresenta il museo condominiale di Tor Marancia, uno dei primi esempi di museo en plein air, di musealizzazione di uno spazio che sarebbe uno spazio pubblico, un condominio, diventato famoso per le opere di street art, e lì dietro c'è una storia abbastanza interessante che non conoscevo e che mi è stata raccontata appunto ieri mattina, e cioè che il curatore di quella operazione è stato praticamente cacciato dagli stessi residenti perché aveva iniziato a fare di questo progetto, e alla fine quasi del condominio e delle persone che ci stanno dentro, una cosa propria, quasi un bioparco. E ho trovato interessante l'analogia tra questo tipo di appropriazione del sistema dell'arte di qualcosa che invece appartiene alla città, cioè la musealizzazione come appropriazione, no? L'ho trovata interessante. C'è qualche analogia con quello che un altro famoso curatore, Adam Sismic, fece al Documenta 14, quando spostò con un atto d'imperio la grande manifestazione d'arte contemporanea da Kassel ad Atene, con fini magari anche largamente condivisibili, cioè aprire gli occhi al mondo di una grande ingiustizia, l'ingiustizia perpetrata ai danni della Grecia in quegli anni. Solo che poi alla fine questa mostra, secondo le parole del ministro greco Varoufakis, oggi famoso conferenziere, tutto si tradusse di fatto per la Grecia non certo in un vantaggio, ma anzi la Grecia come vittima di un'operazione di crisis tourism, anche lì una sorta di bioparco dove le persone sono gli animali nello zoo, le persone che soffrono, tra l'altro. Ecco, io questo l'ho trovato curiosamente simile, anche su scala diversa naturalmente, con la vicenda del museo condominiale, che peraltro invito tutti a visitare se non l'avete fatto. Tormarancia è un quartiere che costeggia la via Colombo, dall'altra parte della Garbatella, uno dei distretti di street art più importanti della capitale, indubbiamente. Tra l'altro, adesso, cacciato il curatore, l'associazione fa anche cose molto carine, come le visite guidate che terminano con un pranzo condominiale offerto dai condomini. Quindi se fate una ricerca trovate su internet l'associazione, vedete quando è prevista la prossima visita. I temi trattati al tavolo sono stati tanti, alcuni a me cari, come per esempio la necessità di fare rete tra tante realtà cittadine che non parlano tra di loro, spesso per ragioni biecamente identitarie, ma questa è una caratteristica tipica di Roma e dei quartieri di Roma, e chiaramente queste realtà non fanno eccezione. Anche i centri sociali, per intenderci, tra di loro non si parlano e anzi si considerano concorrenti. Altra cosa curiosa, perché in un'epoca diciamo che dovrebbe essere ispirata all'intersezionalismo non si assiste affatto ad una vera collaborazione tra i tanti che sbandierano di essere in prima linea per combattere battaglie trasversali. E aggiungo il tema della necessità di trasformare i siti dei musei da vetrine, come spesso purtroppo ancora sono, ad archivi incrementali. Tutto quello che è accaduto, accade e accadrà, no? Una sorta di scheda che attraversa passato, presente e futuro all'interno dell'edificio, con l'obiettivo di eliminare qualsiasi ostacolo tra fruitore dell'esperienza museo offline e online e contenuto. Tutto questo andrebbe fatto in luoghi che dovrebbero essere spazi pubblici digitali, così come il museo dovrebbe essere uno spazio pubblico fisico, e quindi non esercizi commerciali aperti al pubblico, come sono per esempio le piattaforme come Facebook, Instagram, che poi fissano loro le regole di come un museo dovrebbe comportarsi al suo interno, e per essere completamente liberi e fare anche del sito una propaggine della curatela. L'unico modo abbastanza evidente sicuramente andare in posti che chiamiamo siti, ma comunque al di là di chiamarli o meno siti, sono dei luoghi pubblici dove le regole le fissano le persone che si occupano del museo, affidando poi compiti ai vari soggetti che interagiscono con il museo. nei miei sogni più selvaggi, lo dico sempre, sarebbe bellissimo che esistesse anche un back-end dove a certe regole, ovviamente, anche i cittadini, no? Interagiscono e fanno proposte. E qui si apre forse la parte più importante dei lavori di questo Rebirth Forum, per quanto mi riguarda, che proseguiranno ancora oggi e domani, ma non ci sarò io, ci sarà il collega Fabio Benincasa, noi siamo andati in rappresentanza della NABA, per tirare le somme, chiaramente, e uscire anche con un documento condiviso. Ecco, tra i visitatori dei lavori del tavolo abbiamo avuto una visita molto gradita, quella di Cristiana Perrella, che è la nuova direttrice artistica del Macro, che, insomma, come sapete, è un luogo a cui sono legato forse oltre qualsiasi serenità di giudizio e neutralità che richiederebbe il mio ruolo professionale. Sono proprio affezionato a quel palazzo per tante ragioni, affezionato in particolare naturalmente alla direzione artistica del Macro Asilo, quindi il periodo di Giorgio De Finis, che considero, ancora ritengo, l'esperienza più dirompente che abbiamo avuto sicuramente a Roma, ma forse anche in Italia, sul ruolo del museo. Invito ancora tutti a ripescare il sito, che per fortuna è ancora in piedi, di quel progetto macrosilo.it, che prova ad essere un archivio incrementale, anche se con pochi mezzi, di tutto quello che è accaduto lì dentro. E poi devo dire, ho apprezzato molto anche la direzione artistica di Luca Lopinto, chiaramente molto più curatoriale, con questo respiro, sì, da un lato internazionale, ma soprattutto l'idea di trasmettere in modo molto chiaro il ruolo editoriale di un museo, cioè appunto la capacità di definire in modo laico un riquadro di rilevanza senza cercare il pubblico. E poi naturalmente, come sappiamo, il pubblico non ha dato grandi riscontri durante l'ultima direzione del Macro. Questo non è in sé un pregio, però forse è anche la conseguenza di qualcosa di cui bisogna dare atto a Lopinto, cioè appunto il fatto di non aver cercato di fare content marketing. Forse con un po' più di partecipazione e apertura alla città sarebbe stato possibile, ma questa non è assolutamente una critica, è un progetto che forse poteva stare in piedi solo così algido e inarrivabile, così come lo è stato in questi ultimi anni. E ora arriva Cristiana Perrella, che oltre a un background di tutto rispetto porta con sé la volontà molto chiara di non farsi prendere dalla sindrome di Bartali, cioè dire, come si fa spesso, no? Lo spoil system. Dire l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare, no? E quindi tirare una riga e cancellare tutte le esperienze, anzi proporre un progetto dichiaratamente, esplicitamente in discontinuità con i progetti precedenti, no. Forse perché persona molto aperta al dialogo, al recupero e all'efficienza del pensiero, Cristiana Perrella dichiara e ha continuato a dichiarare anche al tavolo di voler riprendere il meglio delle due esperienze precedenti. Quindi consacrare alla curatela sicuramente una parte del museo, per far dialogare il museo con il mondo, quindi approccio Lopinto, e però anche aprire il museo alla città in modo ospitale, come accadde durante il Macro Asilo di De Finis. E addirittura, e qui c'è stata forse la più clamorosa convergenza con quello che avevo scritto in un post qualche mese fa, ad agosto se non sbaglio, addirittura Cristiana ritiene di doversi far suggerire dalla stessa architettura del museo questa bipartizione, in modo dichiarato, cioè una parte consacrata all'apertura al mondo, quindi la parte più nuova, l'espansione dell'ala orientale del museo, quindi quella progettata e poi realizzata dall'architetto Odile Deck, mentre la parte ricavata, la parte più antica in realtà del museo, quella ricavata dalla ristrutturazione dello stabilimento ex Peroni, quindi quella che dà su via Reggio Emilia, potrebbe essere consacrata alla partecipazione all'apertura della città in stile De Finis. Ma naturalmente poi ci verrà fuori sicuramente l'identità propria anche di questa direttrice, che ha molto di proprio da portare in questa esperienza. A me sembra comunque una bellissima notizia sapere intanto che sarà di nuovo un museo vero, perché d'arte contemporanea, perché a Roma adesso con il Maxi trasformato in un Luna Park o in uno spot per la Ferrero o per la società autostrale, è chiaro che Maxi ogni tanto fa anche delle bellissime mostre, ma non possiamo più granché contare sulla sua indipendenza da tutta una serie di leve di potere, e almeno traguardando l'attuale direzione artistica. E quindi dobbiamo rifugiarci di nuovo in questo luogo così straordinario come secondo me è il Macro, e farne forse il centro fisico di tante discussioni e tante forme di partecipazione della città.